edizione. Sei 14 minuti e 22 secondi, una notizia che arriva dal Pakistan. Tre membri della polizia, tre terroristi suicidi sono morti oggi a Peshawar, proprio poco fa, a seguito dell'attacco di un commando armato ad un commissariato nel quartiere di Kotwali. Questo è quello che riferisce una TV pakistana. Noi adesso ci sentiamo cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo per un breve quadro delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sei, 16 minuti e 35 secondi. Dunque, iniziamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E iniziamo dal Corriere della Sera, che ha un'apertura sua, un'apertura particolare, per il semplice motivo che presenta un'intervista a Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, intervista firmata da, tra l'altro, da Massimo Mucchetti, che nei mesi scorsi, forse addirittura negli anni scorsi, era stato piuttosto critico con l'azienda in una serie di editoriali e di commenti. Un'intervista lunga, tra l'altro, di due pagine. Vi diamo un'idea leggendo qualcosa dalla prima. Il titolo è: Marchionne, la Fiat e l'Italia, vi racconto tutto. L'amministratore delegato del Lingotto propone un patto per la competitività. Su Camusso dice: parla troppo di noi, poco con noi. Brano della prima parte dell'intervista, giusto per darvi un'idea di quanto sono ampi i temi toccati. Dice Marchionne, gli Stati Uniti hanno fatto quanto l'Europa si è illusa di poter evitare, chiudere un certo numero di fabbriche. Questo offre una straordinaria opportunità alla Fiat, e Fiat che potrà esportare negli Stati Uniti. Questo penso di fare per l'Italia, ed è per questo che trovo insopportabilmente razzista dipingermi come un uomo senza patria. Comunque, intervista interessante, nella quale non sono risparmiate domande dure, tra l'altro, a Marchionne. A centropagina, nuovo fisco e piano sul lavoro. Sul nuovo fisco, insomma, anche sulle novità in arrivo, tra l'altro, proprio nella giornata di oggi, approfondiremo più avanti con un collega del Sole 24 Ore per fare il punto su quel che è contenuto nel decreto che verrà approvato oggi. Napolitano che dice ai partiti no agli emendamenti fuori tema, e si parla del decreto mille proroghe. L'editoriale di prima pagina è interessante perché su un tema che è rimasto lievemente sotto traccia, che è la denuncia del capo della polizia arrivata l'altro giorno, e riguarda i rischi, le minacce anarchiche, per così dire, è la violenza sotto traccia, a firma di Giovanni Bianconi. Ma del capo della polizia si parla anche per altri motivi. Se ne parla perché sono stati pubblicati ieri, come già vi dicevamo all'interno del nostro giornale radio, gli stipendi dei dirigenti pubblici. Ebbene, in cima alla classifica c'è proprio Manganelli, 621.000 euro, i 57 manager di Stato e lo stipendio da tagliare. Questo è il titolo del pezzo del Corriere della Sera. Aggiornamenti anche sulla vicenda dei due militari in India. Avete sentito qualcosa nel nostro giornale radio poco fa. Il Corriere titola: il calibro dei proiettili può scagionare i marò. Questo un pezzo a firma di Giuseppe Sarcina. Da segnalare, per quanto riguarda il calcio, il titolo che riguarda Ibrahimovic, la conferma della squalifica. Ibrahimovic confermata la squalifica, ira del Milan, salterà la sfida scudetto contro la Juve. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Veniamo al Sole 24 Ore. che apre con l'intervista di Mario Draghi al Wall Street Journal, anche qua una intervista lunga e profonda, come si diceva, un'intervista nella quale veramente a tutto campo, nella quale Draghi tocca sostanzialmente tutti i temi, si sceglie però sceglie il Sole 24 Ore di puntare sul lavoro. Draghi: cruciale riformare il lavoro. Il presidente della BCE: non c'è alternativa al rigore, il modello sociale europeo è superato, le liberalizzazioni sono una priorità. Nel frattempo, segnala il Sole, tensioni in Parlamento su farmacie e agenti RC auto, e Monti che dice: il governo non arretra. A centropagina un titolo dedicato al Presidente della Repubblica che richiama solo modifiche attinenti ai decreti, e la lettera ai Presidenti del Senato e della Camera è riferita proprio al mille proroghe, sul quale ormai ogni anno c'è un richiamo su questi temi, a quanto pare, perché già l'anno scorso avvenne. Una scossa per aiutare l'Italia a ripartire è il titolo del commento di prima pagina di Alberto Orioli, relativo a tutti appunto i grandi temi economici sul piatto in questo momento, all'agenda economica, o meglio l'agenda economica del governo sul piatto in questo momento. A centropagina il mille proroghe e legge, ci sono dettagli, liti con il fisco, si paga fino al 2 aprile per i bolli sui capitali scudati, termini al 16 maggio, oggi il decreto tributario. C'è da segnalare che, come vi abbiamo anche raccontato nei nostri giornali radio, nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha lanciato un manifesto in 5 punti, una costituente affinché la cultura diventi un motore per lo sviluppo. Ebbene, su questo tema c'è un triplo intervento di tre ministri, tutti insieme, e sono tutti e tre i ministri interessati, ossia quello dell'istruzione, quello dei beni culturali e il ministro dello sviluppo economico, quindi Lorenzo Ornaghi, Corrado Passera e Francesco Profumo, ed è una lettera, il titolo è: cultura, necessario tornare ad investire. C'è spazio anche per la sentenza sui respingimenti della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, vi ricorderete, tra l'altro ne abbiamo parlato giusto ieri mattina. La Repubblica: emendamenti, lo stop del Colle, scontro sulle liberalizzazioni, buco nel bilancio, ipotesi di un anticipo IRAP. Di questo parla Repubblica sulla prima pagina, sulla sua prima pagina, il titolo forte di prima. A centropagina si parla dei manager di Stato. Ecco i super stipendi: al primo posto il capo della polizia con 620.000 euro, ai presidenti delle autority 475.000, e da segnalare dal lato scusate, politiche non solo, c'è un titolo che riguarda Umberto Bossi che dice: Bossi con Silvio è rottura totale, ormai sta col premier, e Berlusconi che dice: Mario è un borghese come me, si riferisce a Mario Monti evidentemente. E da segnalare anche il titolo che riguarda il consigliere della RAI Rositani, che dice: mi avete rovinato l'immagine, note spese allegre, Rositani restituisce la carta di credito alla RAI. Da altra cosa da segnalare è l'inchiesta che riguarda la cocaina antistress usata da medici e idraulici. La stampa anche qua, la scelta è per le parole del Presidente della Repubblica, che dice: emendamenti, lo stop del Colle, basta con le correzioni fuori tema, disagio nel Partito Democratico, approvato il mille proroghe, Monti che dice: liberalizzazioni, non arretriamo, e poi lavoro, nuovi ammortizzatori dal 2017. Il commento di prima pagina è firmato da Luca Ricolfi, ma non siamo ancora fuori pericolo, a centropagina 4 foto di Mario Monti, primi 100 giorni sotto esame spread, e vi si legge: con il professore l'Italia è di nuovo credibile, ma lobby e partiti frenano la sua azione. Titolo anche dedicato alla sentenza abbastanza forte, in prima pagina dedicato alla sentenza di ieri della Corte dei diritti dell'uomo, rimpatri in Libia, Italia condannata, e anche qua, come potete immaginare, il titolo per quel che riguarda gli stipendi dei manager pubblici, intervista invece con Gigi Buffon alla vigilia di Milan Juve. Pirlo ora è più decisivo di Ibra. Questo per quanto riguarda la stampa. Il Messaggero titola scontro sulle liberalizzazioni, e poi naturalmente c'è tutto il corollario nella titolazione che riguarda l'economia, lavoro, nuovi ammortizzatori dal 2017, Bersani a Monti nessun veto ma coesione sociale, anche qua titolo su un Napolitano che chiede, che dice basta agli emendamenti fuori tema, e anche qualcosa dedicato, e lo approfondiremo come vi dicevo più avanti, al decreto sulle semplificazioni fiscali che dovrebbe arrivare oggi, che conterrà altre misure anti-evasione, quindi IVA, accise, scontrini, le misure anti-evasione. Il titolo di calcio è dedicato alla Lazio, addio all'Europa, forse non a Reia, che sembra averci ripensato, e parla appunto della Lazio. Interessante la scelta del titolo per quanto riguarda i redditi dei manager pubblici, stipendi dei manager pubblici, dice il Messaggero, mancano però i doppi incarichi. C'è anche un titolo dedicato al primo sì al divorzio breve, un anno per dirsi addio, due se ci sono i figli piccoli. E anche ve la segnaliamo perché insomma è una bella storia trovata dal Messaggero, scambiate nella culla a Roma. Ora si ritrovano dopo 46 anni, addirittura 46 anni. Questo per quanto riguarda il Messaggero. Prima di chiudere e andare brevemente in pubblicità, in particolare vogliamo segnalare due cose che troviamo sui quotidiani internazionali di oggi. Scusate, come potrete immaginare, il Wall Street Journal, perché c'è questa lunga intervista a Draghi che, a dir la verità, trovate anche sul sito del Wall Street Journal, vi vogliamo segnalare questa storia interessante che arriva dal Telegraph e arriva dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. Insomma, ieri si è parlato molto di diritti negati delle donne, perché c'erano dei dati impressionanti per quanto riguarda gli omicidi di donne in Italia. Il Telegraph fa una sua inchiesta tra alcuni medici che praticano degli aborti clandestini, o meglio degli aborti illegali, e sono degli aborti illegali fatti per di fatto far morire le bambine, di fatto infanticidio femminile, così viene definito dal Telegraph. Dei medici, secondo questa inchiesta, che è anche un'inchiesta video sul sito del Telegraph, che offrono appunto l'aborto perché il nuovo arrivato insomma sarà una bambina. Questa è la storia dal Telegraph. Noi ci ritroviamo tra un attimo con un breve aggiornamento del giornale radio. Prima edizione. Le 6:36 minuti e 32 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. E l'Italia in diretta, l'Italia che racconta su Italia in controluce 24 febbraio. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. È l'ultima puntata di questo viaggio di Italia in controluce, di questo reportage verso le prossime amministrative 2012. La puntata odierna è girata a Parma, dove la giunta di centrodestra è entrata in crisi e cresce la protesta popolare per numerose inchieste di malaffare. Il reportage di Cristina Carpinelli. Il prologo di questa storia ha inizio e ruota attorno alla persona di Pietro Vignali,

Eccolo poi su altri temi, a partire da quello del cachet e poi alcune dichiarazioni sul Vaticano ancora. Che colpa ne ho io se mi è capitato di essere uno degli uomini più pagati d'Europa? Io ho provato a dirgli datemi di meno e loro mi hanno detto no, non è possibile perché tu hai una quotazione di mercato e se noi ti diamo di meno poi ci arrestano. Per cui i soldi che la RAI mi dovrà dare non sono dei contribuenti, sono miei. Miei, come lo sarebbero quelli di un falegname se aggiustasse un tavolo a qualcuno. Ogni cosa ha un prezzo, mi pare, no? Se Sanremo al mio posto fosse andata da Pivetti, io non credo avrebbe fatto il 70% di share con punte di 17 milioni di persone. Però non si sa mai, magari diceva una cosa intelligente. Adriano, nelle alte sfere del Vaticano ti attaccano perché il paradiso del re degli ignoranti diventa una sorta di nuvola dorata. Ma loro non sanno com'è il paradiso. Così, dunque, Celentano, noi adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo su strade e autostrade e poi parleremo appunto del decreto sulle semplificazioni fiscali. Prima edizione. Sei 45 minuti e 36 secondi. Sì, il governo procede con la sua agenda che prevede per oggi il varo di questo famoso decreto sulle semplificazioni fiscali. Io saluto Salvatore Padula del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che si occupa naturalmente di queste cose, che l'altro giorno, e dobbiamo dirlo, ha firmato anche un bel commento in prima pagina dicendo che insomma manca un po' un disegno organico da tutto questo, però insomma magari se abbiamo un minuto tocchiamo anche questo tema, però con te volevo fare il punto innanzitutto su che cosa c'è effettivamente all'interno di questo decreto di interessante. Dunque, guarda, questo è un decreto che in realtà noi chiamiamo di semplificazione, ma poi a ben vedere il tema delle semplificazioni è trattato solo parzialmente. Sta diventando, è diventato, probabilmente diventerà una sorta di decreto fiscale omnibus dentro il quale il governo insomma sta cogliendo l'occasione per mettere anche tutta una serie di altre norme e di correzioni a modifiche a norme precedenti, per cui diciamo non ci sono più solo le semplificazioni, ci sono anche norme che in qualche modo hanno la finalità di potenziare l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, e ci sono altre disposizioni di tipo fiscale che ad esempio riguardano la riscossione, la ratezione dei debiti contributivi, c'è dentro qualche proroga perché nel provvedimento è finito anche il nuovo termine che sarà fissato al 16 maggio entro il quale deve essere versata la famosa imposta di bollo sui capitali scudati, diciamo quella sorta di penalizzazione aggiuntiva che è stata introdotta dal governo Monti per chi ha beneficiato in passato delle varie misure di scudo fiscale. Dal punto di vista diciamo relativo al discorso che impatta in modo stretto con le semplificazioni, direi che sono confermate alcune misure che certamente gli operatori avevano chiesto in modo insistente e consistente, direi prevalentemente quella che riguarda il cosiddetto spesometro, cioè l'obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, qui viene fatta una semplificazione importante, e poi anche una semplificazione che riguarda quella che viene definita le operazioni blacklist, le comunicazioni blacklist. Direi che di significativo. Per semplificazioni, scusami Salvatore, intendi che diventa più semplice fare queste comunicazioni molto banalmente? Sì, ovviamente diventa un pochino più semplice per gli operatori fare queste comunicazioni. Per esempio, nel caso dello spesometro, nella regola precedente, anzi devo dire quell'attuale, perché è ancora in vigore, esiste un limite di 3.000 euro al di sopra del quale devono essere effettuate alcune segnalazioni. Gli operatori avevano segnalato che andare poi a selezionare nel totale delle operazioni fatte in un anno quelle sopra e quelle sotto i 3.000 euro dava un po' fastidio, e allora hanno tolto questo limite, per cui verranno comunicate tutte le operazioni ai fini IVA, diciamo un po' il ritorno del vecchio elenco clienti e fornitori. C'è anche una micro stretta sull'evasione. Ci sono diverse misure che vanno a impattare sulle evasioni. Adesso ne cito alcune guardando un pochino il testo che circolava ieri sera e del quale insomma oggi ancora ampiamente parliamo sul giornale. Ci sono per esempio alcune misure che tendono di nuovo a rafforzare, direi questa è la principale, a rafforzare l'uso degli studi di settore, introducendo una penalità maggiore, un rischio maggiore di accertamento per i contribuenti che non compilano in modo corretto, adeguato alcuni modelli allegati alle dichiarazioni relative agli studi di settore, che è una cosa secondo me abbastanza significativa e abbastanza importante. No, stavo dicendo che a un livello che può interessare la totalità dei contribuenti ci sono alcune misure direi abbastanza significative sulla riscossione, sui pagamenti a rate della riscossione. Vengono previste direi principalmente due o tre cose. Sarà possibile chiedere a Equitalia anche di pagare le rate a importo crescente invece che a importo costante. In questo modo, all'inizio, quando uno chiede la rateazione, vuol dire contando magari su una crescita di reddito, hai 10 secondi per gli altri due elementi, Salvatore. Ipoteche ed espropri, e solo per i debiti con Equitalia che superano i 20.000 euro, anche questa è una misura molto importante. E poi una misura anche sulla tracciabilità dei pagamenti. Dal 7 marzo doveva scattare l'obbligo di pagare pensioni e stipendi della pubblica amministrazione sempre con strumenti elettronici sopra i 1.000 euro. Questo termine viene spostato, se mi ricordo bene, al 1 maggio. Esatto, al 1 maggio. Perfetto, grazie a Salvatore Padura del Sole 24 Ore, che sarà costretto, come gli altri colleghi del quotidiano, ad un super lavoro, immagino, nei prossimi giorni, visto che sarà un decreto omnibus, come ci diceva, dal punto di vista fiscale. Molti dettagli li trovate anche sul Sole di oggi. Un saluto a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, e una buona giornata, ci risentiamo tra poco col Giornale Radio.